Per prima cosa, mettetevi comodi. All'inizio è meglio che vi sdraiate sul vostro letto o su di un divano, con le gambe e la testa in posizione comoda. Assicuratevi che mentre vi rilassate, sciogliendo i muscoli, la testa rimanga sorretta, in modo che non possa assumere una posizione scomoda. Non c'è bisogno che alcun muscolo sia in tensione per mantenere la posizione. È consigliabile che la stanza sia in penombra. Staccate il telefono per evitare distrazioni. Ora siete pronti per cominciare. È la terza parte di Eclectic in una settimana che vede gli incipit di David Foster Wallace e gli spezzoni dell'Esorciccio. Vabbè, è il film che probabilmente ha rappresentato il vero inizio della carriera di Lino Banfi, di cui non sono un esperto, comunque non vorrei sbagliarmi nel dire questo, però sono sicurissimo che è il secondo film come regia di Ciccio Ingrassia, che stava cercando una carriera alternativa a quella che storicamente lo vedeva assieme a Franco Franchi. Già ce ne siamo sentiti più di uno di spezzoni nelle prime due parti di Eclectic, ci sarà tempo per sentircene ancora altri, sia in questa terza che anche nella quarta parte di trasmissione. Gene Fitz aveva sognato che se ieri sera non vedeva un concerto sarebbe diventata una qualche specie di liquido. Perciò ieri sera io e i miei amici Mr. Wonderful, Big e Gene Fitz siamo andati a vedere Keith Jarrett, che suonava un concerto per pianoforte all'Auditorium di Irvine. È stato un concerto così bello. Keith Jarrett è un negro che suona il pianoforte. A me piace moltissimo vedere i negri esibirsi in tutti i campi delle arti dello spettacolo. Trovo che siano una razza talentuosa e incantevole di artisti, che sono spesso molto divertenti. In particolare mi piace guardare le esibizioni dei negri ad una certa distanza, perché da vicino spesso hanno un odore sgradevole. Questo era l'incipit della ragazza dai capelli strani di David Foster Wallace. Spicco io il cashback come è andato tranquillamente. Io sempre nella mia villa, come ogni uomo, a una certa ora della notte, io sento una certa esigenza per via di certi esclamenti dolorifici che ho da un po' di anno, per via di un ulcere tuo tenele che mi porta appresso, diciamo così. Quando all'improvviso vedo un omino con la barba nel frigorifero. Poi ho pensato a uno scherzo di grandezza che sarebbe quello che mi ha fatto venire l'ulcere. Invece c'era scritto occupato, richiuto il frigorifero di corsi. Che succede qua? Richiuto di nuovo un'altra volta perché, oh, in questi casi c'è da cacarsi addosso, come si dice in poche parole, con rispetto parlando. Risalgo le scale di corsa e poi a un certo momento non ci ho visto più. Ho richiuso la porta e ho fatto meme e sono svenuto. La mattina dopo, tranquillamente, io e mia moglie nel certino le rosole. Mo ti arriva la contadina con la figlia e ti fa tuo figlio con mio figlio, me lo scorre per col sflatti come se fosse. Che cosa significa? E questo è l'inizio. Thank you. Un inizio di Ecletica, di terza parte di Ecletica, molto molto tranquillo, ma mettetevi in posizione perché sto per darvi una scossa. Prima della scossa vi ricordo che vi siete appena ascoltati da parte di Jacob's Stories, dal suo disco dal titolo Fledgling per la Gravity Deep, il brano dal titolo Words to Live By. Ma soprattutto in apertura di Ecletica, quest'oggi vi siete ascoltati l'album Candy Lion, il brano Candy Lion, visto che hanno lo stesso titolo, che è uscito per Rough Trade e Nomegraph Rise, ovvero sia il cantante dei Super Furry Animals, che non è che si siano sciolti, ma lui ogni tanto così si prende degli spazi tutti per sé e li condivide con altri, e io a mia volta li condivido con voi. Vediamo di proseguire con la promessa scossa che arriva dalla città di Chicago. Heavy International è il nome dell'album, che è il terzo album del trio di Chicago di nome The Eternals. Anche col precedente erano passati da queste parti, ve li ricordate? Forse sì, forse no. Insomma, godetevi il momento. Comunque, esce per la Aesthetics in questo mese di febbraio. Mi sono un po' perso con la pronuncia dell'etichetta. Comunque l'importante è che voi vi ascoltate. The Mix is So Bizarre. You are listening to Heavy International. I. Toscani Muriel, che ci ascoltiamo in questa prova che esce grazie anche alla produzione artistica di Paolo Benvenu. Stagioni è il titolo del brano e direi che è anche tornato il momento di risentire la voce e la chitarra di Erland Rockstad qua su Rock FM in Eclettica. Questa è Winona and I. I would have had my chance to tell her, don't let them bastards get the best of you. I bet you got the strength to pull you through. If I had only had her number, I would have called her up and talked to her. She could have told me how she's holding up. We would have talked about the days we had not long ago, and we were all so young, and old. We did not know what to do or what to become. But look at us, girl, yeah, we're still young now. I know now we know now. We know now. Veramente stavo preparando il caffè, ne vuole una tazza? Non Artemio. Vuole una sigaretta? Uh-huh. Scusa. Quanti figli ha? Due. Moglie? Una. Sa, dico una, perché delle volte ci sono dei... Scusi. Ci sono degli uomini come mio cognato, per esempio. Figlio di buona madre, delle volte che... Scusi. الزمان Dalla musica del deserto, la musica dei Tuareg, nella fattispecie i Tinari Wen, che incidono per l'inglese indipendente l'album Mami Man, altrimenti Water is Life con il brano Clara Shell, all'indie rock che arriva dal frontman dei Pinback, album solista Rob Crow, intitolato Living Well, dove cita se stesso con la canzone dal titolo I Hate You, Rob Crow. Eclettica. Fine della terza parte.